ecco, iniziamo la primavera con una serata un po' frizzante, un po' fuori dalle nostre corde. E ringraziamo l'autore che ci propone un romanzo così un po' nuovo, un po' diverso, ecco, dalle solite proposte che facciamo. E così ne approfitto per dirvi anche che la biblioteca riprenderà le iniziative, gli incontri con gli autori, le iniziative di promozione alla lettura dopo Pasqua, quindi ci rivedremo poi l'8 di aprile con un nuovo ciclo che riguarderà soprattutto le scienze, la fisica, la matematica, e inizieremo l'8 aprile con uno spettacolo di teatro scienza che riguarda il Big Bang. Quindi è tutta una sorpresa, vi invitiamo poi così a venire a conoscere le nostre iniziative, che sono sempre legate comunque anche a delle raccolte precise che la biblioteca sta cercando di sviluppare. E in questo senso anche da anni la biblioteca sviluppa la raccolta locale, la raccolta di memorialistica. E devo dire che il dottor Frangipane in questo è stato per me un grande aiuto, perché con i suoi libri, soprattutto di carattere storico locale, ci ha dato una mano nel raccogliere informazioni, nel proporle, nel far diffondere anche questa conoscenza in maniera sempre molto arguta e piacevole, calamitando l'interesse di persone che magari prima non erano così appassionate. Ecco. Quindi ne approfitto anche per ringraziarla per il contributo che sta dando per la conoscenza del territorio in questa forma diversa e sicuramente anche molto attraente. Vi ringrazio e buona serata. Solo una cosa, abbiamo qui dei libri, ogni tanto metteremo qui qualcosa che può essere preso dagli utenti, se hanno piacere, sono dei libri che abbiamo trovato e che possiamo distribuire gratuitamente. Per chi avesse interesse. Ecco, grazie. Qua libri gratis. Ah, sì. Là libri a pagamento. Ci vuole. Si compensa. Dunque, ringrazio molto la dottoressa, che ha detto delle parole veramente gentili, dandomi un'importanza che forse immeritata, ma in effetti mi sono appassionato negli anni alle vecchie storie di Bolzano, tratte dalle vecchie cronache, dalle cronache dei giornali. Sono giornalista, leggo giornali, e ho cominciato con lo scrivere libri. Bolzano scomparso 1, 2, 3, 4, uscirà il 5 in autunno, è uscito Bolzano, Bombe su Bolzano, uscirà a fine anno Fame a Bolzano, un libro che ricorderà la situazione di Bolzano durante la prima guerra mondiale. A Bolzano si è fatta la fame durante la prima guerra mondiale, letteralmente. E tutte le volte racconto vecchie storie e vedo che la gente segue con interesse crescente quello che io scrivo, non solo, ma i giornali. Io collaboro attualmente al giornale Alto Adige, ogni domenica c'è un mio pezzo sulla Bolzano del passato, sulla Bolzano scomparsa, e domenica prossima leggerete, se comprerete l'Alto Adige, una parentesi fascista di chi vi sta parlando: Frangipane, figlio della lupa e Balilla. È una cosa che ho trovato molto, per me, divertente, perché ricordo gli anni di allora, naturalmente, in una dimensione che è quella di allora, in un mondo, quello di allora, che gli anziani ricorderanno sempre meno, perché sempre meno siamo noi anziani, e per i giovani può essere invece motivo di interesse. Scusa, Ettore, ci sono anche le tue fotografie vestito da Balilla? C'è anche, c'è anche una mia, vedrete domenica, Ettore Frangipane vestito da figlio della lupa. Quindi, avevo all'epoca 6-7 anni, però ero già animato di spirito bellicoso, secondo norma, naturalmente. No? Bene. abbiamo incominciato così, adesso vedo che appunto questa memoria della Bolzano del passato si sta diffondendo non solo attraverso i miei libri, ma anche attraverso gli articoli che appaiono sui giornali, perché giornali rivisti ogni tanto rievocano questo fatto, quell'episodio, questo anniversario, no? E questo vuol dire una cosa, che la cittadinanza di Bolzano, quella di lingua italiana in particolare, ma non solo quella, si sta interessando sempre più alla realtà del territorio in cui noi viviamo. Non siamo più, per dirla in termini un po' pesanti, degli estranei a questo territorio, ma questo territorio è anche il nostro territorio. Io voglio raccontare queste storie risalendo dalla metà dell'Ottocento. Se voi aprite Bolzano-scomparsa, www.bolzano-scomparsa.it, sul web troverete le storie, le cronache di Bolzano dal 1850 al 1950. Le sto raccogliendo ed esponendo, e in questo periodo leggo la Bozner Zeitung del 1866 in caratteri gotici. Guardate che bello, è molto interessante. C'era la seconda guerra d'indipendenza con gli Schützen che passano attraverso Bolzano, venendo a piedi da Kufstein, da Rosenheim, e si incamminano verso il fronte. Dico si incamminano perché si camminava, si marciava, arrivano sudati, bianchi di polvere, perché quelli erano stati di allora, accolti all'entrata di Bolzano dalla Musikkapelle, no, che li accompagnavano, e poi potevano riprendere la strada in treno fino a Rovereto, Trento e oltre, oppure a piedi nuovamente fino su allo Stelvio, al Tonale. Lo Stelvio si chiamava allora Ferdinand, e tra parentesi, alla Ferdinand nel 1959, prima guerra di indipendenza, arrivò chi? Arrivò Garibaldi allo Stelvio, e questo non si sa, ed è una cosa curiosa. E così vi preannuncio un mio prossimo libro, Garibaldi a Bolzano. Primavera 2014. Bellissimo. Qualche discendente anche, o non si sa. Okay. C'è un rifugio Garibaldi, è denominato così a posteriori, c'è una cima Garibaldi, sì, che sovrasta, esatto. Se ci siano discendenti non lo so. So che comunque questa orda di volenterosissimi garibaldini partì al seguito di Garibaldi da Torino, dal Piemonte, nel numero di 3.000 volontari, che arrivarono a 12.000. Camminavano, raccoglievano, si addestravano, giungevano, erano delle orde praticamente, no? Che avevano la prevalenza sull'esercito ordinato di allora, sulla tecnica, sulla tattica militare di allora, che era una tattica che poteva rendere fino a un certo punto, ma che non ci arrivava avanti, correndo, urlando. Il discorso era diverso. Comunque, chiudo questa parentesi. Questo mio ultimo libro è un tentativo che ho fatto, e spero che sia un tentativo di buona riuscita, perché voi purtroppo ne siete le cavie a questo punto. E quel signore là in fondo mi dirà come è andata questa serata di vendite e come saranno andate le altre possibilità di vendita nelle edicole e nelle librerie, e questo mi darà un po' il polso della situazione, anche per indirizzarmi cosa scrivere un futuro, se continuare anche su questo filo, o se limitarmi alla cronaca, alle situazioni storiche, ai personaggi riconosciuti, eccetera eccetera, come ho fatto finora in Bolzano scomparsa. Bene, Cosa ho voluto raccontare? Un romanzo giallo. Ho inventato un romanzo giallo. Un giallo un po' particolare, come vedrete, ma non vi posso dire perché è particolare. E non ve lo dico perché il romanzo giallo è in funzione di un finale. Cioè, come il mio finale è assolutamente a sorpresa e anomalo, non ve lo dico. Comunque, non ci sono maggiordomi e quindi andate tranquilli. Ecco, sotto questo profilo non ci sono sorprese. È un romanzo giallo che racconta una storia che io ho immaginato a Bolzano. Ecco quello che è fatto interessante, che le vie sono le vie di Bolzano, i bar sono i bar di Bolzano, i fatti di cronaca sono i fatti di cronaca di Bolzano, il cimitero, per dire, è quello di Bolzano. Cioè, il discorso vale molto, questo giallo, per un bolzanino. Ma io ho voluto mettere questa sigla Requiem a Bolzano perché ho pensato che con questo mio tentativo di giallo, adesso non voglio usare troppo il termine tentativo, sennò sembra, mi sto svaccando un poco, con questa mia ipotesi di giallo, possa questo mio libro uscire dall'ambito ristretto della città di Bolzano e territorio immediatamente adiacente e possa suscitare dell'interesse al limite anche a Siracusa. Non arriverà a Siracusa naturalmente, però l'interesse generale è il termine bolzano. E secondo me è un termine di richiamo, perché Bolzano è una città conosciuta, perché Bolzano c'è il mercatino di Natale, perché è una città pulita, perché è una città pacciosa, una città tranquilla, dove non accade niente. E nelle classifiche del benessere, nelle classifiche nazionali del benessere, chi è sempre al primo posto? Bolzano, con qualche presenza di Trento, episodicamente di Aosta, ma io che sono stato spesso ad Aosta vi assicuro che è tutt'altra roba, meglio Bolzano. Dunque, allora, ho voluto quindi che i miei libri abbiano tutti questo riconoscimento Bolzano nel titolo. E nel mio racconto c'è per l'appunto un... bancario, un impiegato di banca che si chiama David Finzi, ebreo, che vive a Bolzano e che da Bolzano scompare. Sua moglie Sara non ne sa niente, il figlio Aaron neanche. Questo David Finzi a un certo punto non c'è più e quindi si crea il grosso problema di trovare dove è andata a finire Davide Finzi. E la storia si sviluppa lentamente. E la moglie resta sola e si vergogna un po', è un insegnante, non vuole che si sappia, forse torna, è andato con una donna, chissà. È un po' retriva a denunciare la sparizione del marito, a farla sapere agli amici. È una forma di pudore praticamente, no? Finché a un certo punto quella donna sanamente aggressiva che è e che sa essere, dice: qui la situazione è meglio affrontarla di petto. Annuncia a tutti che suo marito se n'è andato, che lei è nuovamente signorina, e inizia anche una relazione portandosi appresso questo suo amico, che entra in compagnia. E quando si raggiunge una certa età si formano le compagnie, non so se avete notato, no? Ci sono le compagnie sono fatte di coppie. E le compagnie sono fatte di coppie, ma quando manca uno dei due elementi della coppia, l'equilibrio scricchiola un poco, perché se l'elemento che resta è l'elemento maschile, allora i maschietti lo guardano con un po' di sospetto, chissà che intenzioni ha con le nostre mogli, e viceversa. Soprattutto le donne si ingelosiscono della presenza di una donna sola. Lui prende questo suo compagno, se lo porta in compagnia, inizia questo menage che va avanti, e parallelamente lei, che non è questo, è un altro. Il mio libro ha tre colori: giallo, noir, rosso. Come vi suggerisce la compagnia, la copertina, l'elemento sexy è un elemento che ha un certo peso, accattivante non solo, quasi anche preponderante. E lei, che era abituata ad una vita tranquilla, la banalizzazione dell'amore attraverso in un matrimonio che era diventato consuetudine, lei incomincia a vivere assieme a questo suo partner una situazione diversa, trasgressiva. E quindi tutta una serie di situazioni che non voglio illustrare in questo momento, ma che lascio, non dico alla vostra fantasia, ma comunque se leggerete il libro le scoprirete. Tra parentesi, l'editore, che è Curco Genovese, trentino di sani istinti, mi ha detto: ma mi pare che sia un poco di qua, un poco di là. E allora gli ho fatto presente una cosa. Gli ho fatto presente una cosa, che lui, cioè Curco Genovese, di due simpaticissime persone che hanno fiducia in me e questo le rende ancora più simpatiche, e sono gli editori di Bazar. Se voi comprate a Bazar e ve lo leggete, coppia cerca coppia, c'è, no? C'è un Bazar luce rossa che ti fa capire che c'è tutta una realtà diversa. Noi giriamo per le strade, vediamo gente che va, chi viene, eccetera, eccetera, ma anche, dietro quelle sarà cinese. Anche coppie cercano coppie, che è ancora più tardi. Che ancora, esatto, sì, coppie cercano coppie. Si vede che Arnaldo Lohner ha una esperienza più vasta. Ha una immaginazione. Ma forse immaginazione. Immaginazione. Sicuramente come avvocato. Potrebbe anche scrivere, ogni tanto mi dice: dovremmo scrivere qualcosa insieme. Incomincia, dico, no? Perché sicuramente va bene. Guardate che è veramente così, c'è tutta una realtà che ci sfugge dietro le saracinesche chiuse, le persiane abbassate, eccetera eccetera, c'è una realtà che noi non sappiamo, che noi non supponiamo, che noi possiamo intuire e che comunque non si fa, non si mette in mostra per evidenti motivi. Ecco, questo è il giro nel quale entra la protagonista, la moglie dello scomparso, e finisce con essere un'attrice, una protagonista di questa situazione, convinta, nella quale vive le sue trasgressioni, che sono anche trasgressioni sessuali, improntate, questo ve lo voglio dire, così andate a comprarlo questo libro. Improntate anche un tantinello al sadomasochismo, perché tutto questo mi porta ad un altro discorso, che è il discorso di sottofondo, di cornice al libro, perché io parlo di Bolzano con i riferimenti topografici e personali immediati. Per dire, uno spettacolo di recente che avete visto forse molto bello, il Richard Strauss, non il Richard Strauss, la Salome musicata da Richard Strauss è presentata al nostro teatro comunale, per esempio, uno dei tanti episodi che racconto, al quale Sara, la protagonista, assiste, immedesimandosi a questo punto nei personaggi, la crudeltà di Salomè, crudeltà naturalmente, sadomasochismo, come dicevo in precedenza. E cosa dici? No, dico, c'è una testa tagliata. Ma la testa tagliata, la realtà è una realtà di sangue, perché io ho voluto ricordare, ho inserito in questa vicenda l'emergere di una situazione patologica di Bolzano. Dicevo prima, Bolzano tranquilla, paciosa, eccetera eccetera. Bolzano è una città ad alto quoziente di pericolosità per le donne. Uso una terminologia forse non simpatica, ma è così. Il femminicidio a Bolzano è una cosa piuttosto frequente. L'ultimo caso, se ricorderete, è avvenuto nel settembre scorso, piani di Bolzano, Svetla Fileva, bulgara, 22 anni, caricata in macchina da una ragazzina di 19 anni, che l'ha pugnalata a sangue e l'ha uccisa. Secondo il giudice, il GIP, l'assassino, che è stato per fortuna subito identificato, individuato, arrestato, era un potenziale serial killer, e Bolzano di serial killer ne ha avuti altri due, Guido Zingerle e Marco Bergamo. Allora, ho voluto ricordare tutti questi episodi avvenuti nel corso degli anni per dare in un certo senso polso a questa cornice di, ecco, ringrazio l'avvocato Pasquali. Hai perso tutta la prima parte, ma poi la ripeterò per te. No, gli amici servono a questo. E avviene che la protagonista, questa Sara Finzi, incomincia a sentirsi dalle parti delle donne, dalla parte delle donne, sfogliando vecchi giornali. Nel momento in cui scopre che la casa che lei abita, via Ospedale numero 2, è una casa nella quale fu uccisa una donna. A questo punto ricordo io, nel 1948, c'era una tintoria a livello strada, nella quale fu sgozzata la gestrice, che si chiamava Anna Ciudat. Io ero ragazzino allora, sfogliavo i giornali con attenzione, mi interessava la cronaca nera, e rimasi molto colpito da questo fatto, e ho trasferito questa mia sensazione. Non è stato mai scoperto chi fosse l'assassino della Ciudat. Ho trasferito questa mia sensazione nella protagonista, che poco dopo si trova di fronte ad una situazione analoga. Scompare una maestrina di Longomoso, abitava a Bolzano, andava tutti i giorni su a piedi a Colonia, sopra il Guncin, per insegnare. Si chiamava Gertrude Kutin, all'epoca Gertrude Kutin, naturalmente, no? E scompare. Per due anni, un anno e più, non se ne sa niente, e alla fine si trovano i suoi resti. Tra l'altro, il giornale Alto Adige ebbe la pensata, ci restai esterrefatto quando andrai a sfogliare la vecchia raccolta del 48, di pubblicare la fotografia della bara di legno, quattro assi, nella quale era stato raccolto quello che era rimasto della Kutin, no? Quattro ossa, una roba di un macabro da morire, insomma, no? Che è, se vogliamo, un secondo sfregio a quella povera giovane che era stata uccisa. Chi l'ha uccisa? Non si seppe a lungo, finché accade una cosa. Accade che sopra Innsbruck, Pacherkofel, una turista inglese fu pugnalata, fu sgozzata e uccisa anche lei. Allora la gendarmeria austriaca andò un po' sul velluto, perché c'era stato un personaggio, un sudtirolese, tale Guido Zingerle, che era stato beccato mentre dava fastidio a delle ragazze, a delle signore. Pensarono potesse essere lui, lo segnalarono ai carabinieri dicendo: guarda che questo facilmente scappa e torna in Alto Adige. I carabinieri, travestiti da cacciatori, lo attesero in Valle Aurina. Quello si arrivò e fu così che fu arrestato Guido Zingerle, che confessò non due ma tre delitti, perché era convinto di aver ucciso tre donne, non solo due. Pensate all'assurdo: questo che aveva ucciso la Kutin, aveva ucciso questa turista inglese, e riteneva di aver ucciso anche una quindicenne di Caldaro, che lui aveva aggredito, picchiato, violentato nei pressi di Caldaro, e poi coperta di pietre, ritenendola ormai morta. Questa poveretta era riuscita a liberarsi, tornata a casa, quindi in questo caso le cose si sono sviluppate in una maniera positiva. Adesso mi sto addentrando un po' troppo nei particolari. Io... Se ce lo racconti tutto, non lo comprendo. Appunto. Allora. Ma le cose importanti non ve le racconto. Delitto e castigo si legge anche delitto tre volte. E castigo si legge anche tre volte. Ecco, vi ho raccontato di questi episodi, e adesso a questo punto faccio un salto e arrivo a una ragazza di 22 anni uccisa nello studio di un notaio in via Duca d'Aosta, Francesca Montemugheli. Io ogni tanto vado al cimitero perché ho questa tendenza necrofila, specialmente quando andavo a visitare le tombe dei miei genitori e passavo davanti ad un porticato di sinistra, fuori ci sono due tombe interessanti che dicono qualcosa, quella di Manlio Longon, ucciso al quarto corpo d'armata, strangolato dai nazisti, e quello di Francesca Montebugnoli, che è molto bello. La tomba è praticamente un ceppo mozzato e sopra c'è la fotografia di questa ragazza con i capelli a caschetto come si usava allora e occhiali piuttosto forti, uccisa non si sa da chi, non si sa come, sì, si sa come, sgozzata anche in questo caso. Lei era nello studio notarile dell'avvocato, del notaio Giatti, in via Duca d'Aosta, e non voglio scendere in tanti particolari perché la cosa è dibattuta. Non si riuscì a trovare, si ebbero molti sospetti relativi anche all'attività, supposta attività di Giatti, ma questo non lo si può dire naturalmente, anzi è stato smentito perché i personaggi sono stati assolti. Ma voglio sottolineare che furono arrestati due ragazzi. Io uno di questi due l'ho intervistato a suo tempo, a Gargazzone, di lingua tedesca, ai quali fu addebitato questo omicidio, non erano stati loro, e furono difesi, tra l'altro, furono difesi dalla prima avvocatessa di Bolzano, d'Italia, la più giovane, la dottoressa Adriana Pasquali, che mi ha raccontato al riguardo molte cose che qua non figurano. Comunque, io per dirvi un po', voglio anche, guardiamo l'orologio, sì, ci stiamo, non voglio essere troppo lungo, mi capitate alle volte di andare oltre le 7, vi raccomando, termineremo molto prima. Ecco, leggo il giornale, siamo al 31 gennaio 1969 a Alto Adige, e si viene a sapere di questo omicidio. La questura lo fa sapere ai genitori, che vengono di corsa, vengono fermati sul giroscale davanti praticamente alla porta dietro la quale giace e uccisa. Ho visto la foto di questa ragazza poverina uccisa, e vabbè, lasciamo stare i dettagli, e non li fanno entrare, non vogliono confessare loro che la ragazza è morta. La disperazione di questi personaggi è incredibile. Io ho visto sul giornale, proprio ripeto, 31 gennaio 1969, la foto del padre disperato che viene trattenuto da due agenti di pubblica sicurezza. Testo. Passa mezz'ora e poi ancora un quarto d'ora. Quell'uomo e sua moglie sono ancora sulle scale che piangono, che si disperano, che invocano un aiuto da qualcuno. È una scena straziante, tanto che avresti l'impulso di gridarlo che Francesca è morta. Poi più avanti, è passata un'ora e un maresciallo convince Enzo Montebugnoli e la moglie a tornare a casa. Francesca vedrà, se la caverà, venga via ora. E li mandano a casa, poveretti, in una situazione veramente, veramente tragica, veramente brutta. Era una ragazza felice, puntava al matrimonio. Vi voglio leggere ancora cosa scrive il giornale perché è sintomatico anche dei tempi. Era una ragazza felice, bella, aveva pensato a tutto, anche alle difficoltà che avrebbe potuto intonare subito dopo il matrimonio. Difficoltà, intendiamoci, di carattere finanziario. Così tempo addietro, quando il suo datore di lavoro le aveva detto che l'avrebbe licenziata per via di quel matrimonio, essa l'aveva pregato di tenerla ancora. Semmai avrebbe lasciato il lavoro da sola nel caso che si fosse preannunciata in seguito la nascita di un bambino. Il notaio non voleva che restasse incinta perché? all'epoca si usava così, non so se anche adesso, e spero che le donne siano meglio tutelate rispetto ad allora. Benissimo. Sono nati 12 bambini. Quanti? In 12 anni 12 bambini sono nati in questa vita. Il contributo di 3 bambini l'ha dato lei, però, maggiore. Vedete come il mondo cambia. Si dice che il mondo cambia in peggio, no? Vi assicuro che leggendo le cronache del 1800 posso garantirmi che si vive molto, ma molto, ma molto meglio oggi di allora. Molto meglio. Noi in particolare. Noi in particolare. Poi c'è qualcuno che magari... Bene. E poi andando avanti, un'altra storia di donna scomparsa, Irida Prantner, non se ne sa niente. Questa donna che abitava in via Rovigo, il marito sospettatissimo, però non c'è niente da dire, se ne va con la Filippina e di Irida Prantner non si sa più niente. Non si è saputo niente naturalmente, anche ve l'ho detto prima, della Montebugnoli. E poi un altro caso, 1985, Marcella Casagrande. Ricorderete l'episodio di Marcella Casagrande, una ragazzina acqua e sapone di 15 anni, una cosa del genere, no? Uccisa a casa sua in via della Visitazione. Era un periodo piuttosto nero, perché poco dopo morì sgozzata anche Anna Maria Cipolletti. Vi ricordate? Era un'insegnante d'italiano che si prostituiva, aveva un piede a terra, era una bella donna, un piede a terra in via Brennero, se non mi ricordo se via Brennero o via Renon, comunque là, e la trovarono morta, sgozzata. Renate Rau, prostituta, raccolta ai piani di Bozzano, Renate Troger, Marica Zorzi lavorava all'Aives, cioè abitava all'Aives, diceva ai suoi genitori di venire a Bozzano per lavorare, invece si prostituiva anche lei sgozzata. Ed è l'uccisione di Marica Zorzi che risolve tutta questa serie di interrogativi. Perché? Questa volta la polizia arriva per tempo, perché viene scoperto subito il cadavere di questa ragazza, prostituta, ripeto, e alle forze di polizia... Qui siamo ancora a Nottaio Giatti, ma non ho voluto insistere, c'è stato anche un processo piuttosto pesante. Di recente il giornalista dell'Alto Adige Paolo Cagnan ha rievocato i 30 anni della morte della Montebugnoli, c'è stata una querela da parte del Nottaio Giatti che pretendeva danni per 1.200.000.000 di lire. Parallelamente la querela anche di suo cognato, che era stato a sua volta sospettato, però Cagnan fu assolto. Ecco, non sono entrato nei dettagli, però la storia qui è raccontata. Ma veniamo a Marica Zorzi. Dunque, in precedenza era stata uccisa nel 92 a Trento una certa Anna Maria Ropele, anche questa è prostituta, tra l'altro. Questo per dire, insomma, Trento tranquilla, Bolzano tranquilla, il vescovo, tutte queste cose qua, però. Allora, Sara, sfogliando vecchi giornali, lesse di Renate Rau, prostituta anch'essa, aveva 24 anni ed era stata coltellata il giorno prima nel parcheggio di un'area di servizio di via Renon ed abbandonata lì. Lesse di Renata Troger, una sbandata di 18 anni salita in una macchina in Piazza Verdi a Bolzano. Il 22 marzo dello stesso anno è rinvenuta sgozzata lungo la statale del Brennero nei pressi di Campodazzo. Sempre prostitute raccolte là. Lesse di Marica o Marica Zorzi, anche lei diciottenne, di Laivis, i suoi credevano che campasse facendo le pulizie, invece si prostituiva. Era stata caricata in macchina ai piani il 6 agosto, accoltellata e abbandonata al secondo tornante della strada per il Colle. Ma quella volta l'auto dell'omicida fu notata e una pattuglia della polizia la fermò. Marika Zorzi era stata accoltellata poco dopo la mezzanotte. Testimoni di passaggio dissero di una Ibiza rossa targata BZ, lettere arancione, una targa ormai desueta, e poi qualche 6 e una 4. La polizia la scorse verso le 7 del mattino al sottopassaggio ferroviario della zona industriale. Dopo aver girato continuamente per la città fino alle 7 del mattino, questa pattuglia si fermò lì per bere un caffè e videro passare questa Ibiza rossa. Un'altra. E ne scese un giovanotto dai baffi spioventi, i documenti lo qualificarono quale Bergamo Marco, 26 anni, compiuti quello stesso giorno, abitante via Visitazione 72. Il sedile a fianco di quello del guidatore mancava di imbottitura e tappezzeria. Si seppe poi che il Bergamo se n'era liberato in quanto imbevuto di sangue. Nel bagaglio indumenti insanguinati e i documenti della giovane donna uccisa poco più di 6 ore prima. Rapido collegamento radio, l'abbiamo preso. Tra l'altro, l'ultimo omicidio, quello relativo alla Elena, di cui vi ho detto prima, Svetla Fileva, la quale vi ho detto prima, settembre scorso, avvenne quasi con lo stesso meccanismo. Anche in quel caso fu fermata la macchina di questo ragazzo che, essendo la poltroncina al suo fianco coperta di sangue, imbevuta di sangue, era andato verso col Terenzio, l'aveva tolto, buttata via e se ne stava tornando a Bolzano quando è stato beccato. Dunque, tutta una serie di omicidi che sono stati addebitati a questo giovanotto Marco Bergamo, che era un povero disgraziato, impotente tra l'altro. E questa è anche una cosa molto interessante, perché c'è lo psichiatra che dice che sono molto pericolosi gli impotenti, perché questa loro impotenza la traducono alle volte nella potenza di un coltello. Il coltello è rigido e penetra nelle carni di una donna, mentre un membro può a un certo punto, come si suol dire, fare cilecca. E quindi loro riaffermano la loro, Marco Bergamo, questo ultimo ragazzo, riaffermano la loro virilità ferendo, entrando violentemente nel corpo della donna attraverso questa via, se mi permettete di dire, anomala. Ecco, questi sono tutta una serie di episodi avvenuti a Bolzano che io ho raccolto attraverso le cronache dell'epoca, il giornale Alto Adige, oppure attraverso libri scritti da colleghi, nel caso specifico Paolo Cagnan, che ne ha scritto due, uno Trilogia di un delitto e l'altro proprio Marco Bergamo. Sono libri, tra l'altro, uno di due, quello Marco Bergamo è molto interessante perché l'ho preso a Nolo, se non so in quale biblioteca, non da voi. Noi ce l'abbiamo. Voi ce l'avete comunque, ma io l'ho trovato, credo, o alla Tesmano, o alla Civica, non lo so. E quello che mi ha impressionato è che questo libro, questo libretto, è consumatissimo. È stato, pensate quanta gente si interessa di queste cose, no? Anche Marco Sati di Trento, no? Un altro giornalista sempre da lui. Sì? Luigi Sardi? Questa... Sì, Luigi Sardi. Esatto. Di Trento, esatto. È interessante vedere quanta curiosità c'è nei confronti di questa patologia umana. Tra parentesi, non vi ricordate un altro delitto che era stato inizialmente addebitato al Bergamo, una turista uccisa mentre passeggiava, a coltello anche queste volte, mentre passeggiava nei dintorni di Riscone, nei pressi di Brunico. Quindi la casistica è vasta, non soltanto a Bolzano, ma anche in giro, anche a Merano. La donna, ripeto un concetto, il mestiere di donna, ripeto un concetto espresso prima, è un mestiere difficile, in assoluto nel mondo, ma anche nella paciosa, vecchia, tranquilla Bolzano. Ecco, volevo aggiungere ancora qualche cosa prima di concludere, ed è questo. Dopo aver scritto il suo il suo secondo libro, Paolo Cagnan si rivolse, scrisse all'omicida, al pluriomicida, a Marco Bergamo. Ecco, questa qua è la perizia che ha condannato Bergamo, ve la leggo subito. Bergamo è giunta alla perversione estrema, l'omicidio per godimento. Dopo il primo assassinio ha scoperto che uccidendo pagava il suo piacere e nello stesso tempo distruggeva l'oggetto temuto e odiato, la dota. Più avanti. Per Bergamo uccidere rappresentava ormai l'estrema perversione sadica, la modalità più forte per possedere la donna. E poi dicevo del giornalista di Paolo Cagnan che ha scritto questi due libri. Nel caso del libro dedicato esclusivamente a Marco Bergamo, parentesi, Marco Bergamo l'8 marzo del 1994 viene condannato all'ergastolo per tutti i 5 casi che gli erano stati ascritti. Il giornalista Paolo Cagnan gli scrive, Bergamo così risponde, virgolette, io sottoscritto Bergamo Marco, ho commesso solo 3 omicidi e li ho confessati. Gli omicidi Trogger e Cipolletti li ha commessi una seconda persona potenzialmente più pericolosa di me, virgolette chiuse. Estremamente, non aveva, che fossero 3 o 5 gli omicidi, per lui era assolutamente irrilevante. È preoccupante invece il fatto che lui sostenga di averne ucciso soltanto 3, quindi queste altre 2 donne da chi sono state uccise? Ci sono dei, c'è un serial killer visto che è ancora in circolazione. Vediamo chi altro ha letto più volte il libro. Con un tempismo di gusto discutibile, la RAI, scusami, annuncia per la rubrica televisiva Un giorno in pretura, in programma il 18 aprile, una serata dedicata al processo Bergamo. Lo stesso giorno il padre 72enne del pluriomicida sale in soffitta e si impicca. Non ha retto alla vergogna. Ecco, questa è la cornice, lungo la quale si dipana la storia che ho inventato io, questa strana storia, questo strano giallo a luce rosse, eccetera, eccetera, con un po' di violenza. Però perché la violenza? Perché nel caso, vi dicevo di sadomasochismo, perché la protagonista, Sara Finzi, accetta come trasgressione forme di masochismo su se stessa. Però non accetta, in linea di principio giustamente, che si possa espletare delle forme di masochismo estremo nei confronti di altre persone. Quindi si sente dalla parte delle donne, si sente in un certo senso di volere e dovere vendicare le donne uccise attraverso un'equivalente azione nei confronti degli uomini che uccide. Che uccidono e si erge non dichiaratamente ma sotto sotto a vindice del suo genere, il genere femminile, e adesso non vado più avanti perché altrimenti vi dico come va a finire. Ringrazio una delle tante donne che è comparso il marito lo ammazza. Vi ringrazio dell'attenzione. All'autunno prossimo per Bolzano scomparsa numero 5.